Ordinata al posto di fare l'amplificatore faceva il trasmettitore, e quindi ovviamente non hanno neanche fatto sanzioni, non hanno fatto niente, però le hanno detto che stava disturbando, perché le antenne TV hanno la direttiva, quindi qualcosa usciva da questo, poi con quel tipo di ricevitori lì astronomici sono micidiali, capito? Hanno una sensibilità da paura. E evidentemente questo cavo d'amplificatore andava in autoscillazione e ha creato tutto questo bel casotto. Ce ne hanno messo a trovarlo con triangolazione, però alla fine hanno avuto la meglio. Hola, mi sentite? Sì, adesso vai bene. Cosa hai fatto? Allora, che cosa ho fatto? Ho messo un altro apparecchio. Ehi. Sì, sì, è sparita l'alternata, sei anche forte di segnale, sicuramente sei attaccato. E c'è qualcosa da vedere in quell'apparecchio, dai. Però digli a Pomponio di non fartene due, capito, se lo controlla. No, ne fa tre. Intese, ne fa tre. Ma è già tirato il guglione, questo apparecchio. Lasciamo perdere che sono un po' incazzato. Ehi, naturalmente, ripeto, cioè Antonello quando lo usava in condizioni normali, cioè non aveva quel problema, chi lo sa, magari è tutta una concomitanza di cose che lo fanno uscire così. E Gianfra, ti volevo, vabbè, un discorso lungo e non so se è il caso. Allora, se lo vedi che è tutto attaccato, c'è anche quell'alimentatore switching, la presa, è tutto attaccato, e beh, fa qualche cosa forse, non fa niente, è l'apparecchio che c'è qualcosa, punto e basta. Partita la massa interna, come succedeva la Fiat Punto. Ehi, prima quando c'era Giulio, all'uso all'impianto elettrico della Punto, della 1 esattamente, che certe volte metti la freccia e diventa un albero di Natale, comincia a luccicare tutto, si incasinava l'impianto elettrico. Infatti cos'è? 78 plus? Quello di Antonio, sì, 78 plus oppure il 495 power, giusto? Ma questo è la Fayette Zeus, chi c'è andato in Oramara, che tu? Questo è la Fayette Zeus, con l'amplificatore attaccato, alimentatore switching cinese e tutte cose, e noi andiamo a radio. Sì, sì, sì, vabbè. E qual è, perché? Cosa ti è successo? Quale si è rovinato? Il 78? La cosa? Il 790 dalla Intac, quello lì si è rovinato. Sì, volevo dire quello, dai, quello lì, in piccolino, dai. Questo è piccolo lo stesso, eppure funziona bene. Funziona bene, è una bomba, Ehi, oh, Gianfra, ti voglio accennare una cosa di... a proposito di cinesserie. Dimmi. Leggendo quella sui forum, no, si parlava del solito Baofeng 888, no, che da decenni a questa parte è una cosa che non si crede, ne avranno prodotti miliardi di esemplari, no? Quello che non sapevo è che avevano fatto varie versioni, cioè la prima avevano stampato più grande, poi l'ultima versione ne hanno fatto credo tre, l'ultima hanno stampato che quasi la metà, poi vabbè hanno adottato anche delle, sono andati proprio al risparmio totale, tipo addirittura l'altoparlantino anziché essere tenuto da due viti è tenuto dalla colla, no, in serie, ma non è lì che volevo parare. L'altro giorno con Antonio Grodde parlavamo dell'888 che tutti l'hanno conosciuto UHF, però se opportunamente configurato funziona anche in VHF. Allora lì ho fatto una ricerca e pare che in VHF ci vada effettivamente l'ultima versione, o penultima o ultima o tutte e due, non la prima. Bisogna fare una lunfiata col software, devi scaricare devi aprire CIRP, poi devi fare una lunfiata col file originale di configurazione, cioè devi andare proprio a modificare parametri più delicati, non le impostazioni base. e quindi ottieni questo portatilino che trasmette sia in VHF e sia in UHF. Naturalmente è canalizzato, non hai la tastiera, li devi memorizzare e boom. Però c'è il però. C'è il però che i filtri non sono ottimizzati per andare in VHF. E comunque, dato il costo, stiamo parlando di 35 euro, anche forse te ne danno due anche con 35 euro, non ricordo. Cioè non vale la pena neanche aprirlo, cioè aprirlo è già un costo superiore, capito? Così anche per il per questo Avanza 68 costa 99 euro, 100 euro, qualcuno 114, ma nuovo non ha senso, capito? Quello che c'è magari anche migliore, quello tipo sottiletta che costava 45 euro e funziona perfettamente. Quindi il discorso è puramente così, accademico quasi, però non serve a niente, è tempo sprecato. Sì, praticamente c'è un radioamatore che ha voluto fare la prova, ha fatto questa magia col software, questa lonfiata, l'ha testato con oscilloscopio, allora in UHF tranquillo, niente armoniche, pulito eccetera. In VHF, allora, c'è l'armonica fondamentale, no? Del 145.0, credo che l'abbia provato, adesso non mi ricordo esattamente, no? Allora, la seconda armonica finiva sui 290 MHz ed era più forte dell'armonica base, no? Della fondamentale. Poi la terza armonica finiva sui 4,35 con la stessa intensità dell'armonica fondamentale, cioè trasmettevi in sincrono a 145, 2,90 e 4,35, una cosa micidiale, più c'era la quinta, la settima e via via a venire. Quindi sì, può trasmettere in VHF, ma è una macchina infernale, è una cosa terrificante. Per fortuna esce con 2 watt in VHF, scarsi pure, però penso che addirittura questi 2 watt siano suddivisi nelle varie armoniche, giusto? Quindi magari te ne dà, che ne so, mezzo a in VHF, mezzo a 290 MHz, mezzo a 435 o giù di lì. Comunque sì, è proprio terrificante, è proprio un'emissione sporchissima. Vai Gianfra, tutto naturalmente documentato sul forum con foto dell'oscilloscopio, eccetera. Sì, è lo stesso discorso del lineare della ZG, che con delle banali modifiche poteva andare dagli 80, dai 40 fino ai 30. Andare già ci andava, però bisogna vedere cosa tirava fuori. Praticamente lo sentivano su tutte le bande. Ma quello che mi ha fatto più ridere era la seconda armonica sui 290 MHz, che era più forte di segnale analizzata dell'armonica fondamentale. È una magia, chissà come sono riusciti a farlo. Allora poi, dunque, le prime versioni avevano un chip diverso, no? Quello che poi fa tutto. Le ultime due avevano un chip, non so, era una seconda versione, tipo, adesso non mi ricordo le sigle, non voglio dire fesserie. Comunque le prime versioni avevano altri problemi, tipo lo squelch è troppo duro ad aprirsi e anche bassa sensibilità in ricezione, io me ne accorgevo. Le ultimissime versioni, ultime o ultimissime, invece hanno risolto tutti e due i problemi, cioè la ricezione è ottima e lo squelch non è duro da aprire, capito? Solo che deve funzionare in UHF, proprio va lasciato stare lì perché sennò fa danno forte. Tra l'altro capiti proprio in un territorio molto amico, che è la banda aeronautica militare, quindi te la vai proprio a cercare. Insomma, lì siamo ancora in banda aeronautica militare, tutto quel pezzo, comunque sì, credo tutto fino ai 380, forse oltre, no, tutta roba comunque al Ministero di Difesa, giù di lì, giusto? Ah, comunque l'888 costa 10 euro, cioè dai cinesi ne costa 20, uno, non dai cinesi qua a Sassari. Se tu lo prendi, che ne so, da Robotraver, costano 2,19,90, quindi ti danno due portatili, due batterie, due antennini, due caricabatterie, due auricolari con cuffie, due cinghiotti per il polso, e quindi cosa vuoi di più? 10 euro lo stai pagando? Io mi vengo a ridere. Quello che non sanno però è che non è detto che siano omologati, o comunque che non sia, non sono autorizzati. Avevo letto qualcosa proprio sulla Baofeng, che non erano autorizzati al mercato europeo, forse neanche l'FCC gli ha dato l'autorizzazione, quindi praticamente a prescindere sarebbero degli apparati illegali. Ehi, Antonio, ci sei ancora? Antonio? Ci sono già. Ehi, stavamo parlando del portatilino, quello che hai preso, che credo che non ci sia un CB che non ce l'abbia, sia qua che in tutte le città d'Italia, vabbè. Appunto, anche tu credevi che fosse un apparecchietto omologato, no, no, è un'altra cosa, però finché viene usato per la banda natia, insomma, con molte riserve, va bene. Funziona bene, dicono, non hai problemi che aveva il vecchio modello, il primo modello appena uscito. Ehi, cos'altro volevo dire? Boh, sto sovrendo la, sto asciuttando, devo andare a bere. Riprendi Antonio, parla tu. Gappa, in tutti i rinegozi però bisogna vedere pure. Ma cosa? Illegale, tutto è legale. Poi, alla fin fine piace male lo stesso. Sono diventato. E qua Pantone, che c'è un gatto di Longoso, non anda. Domani quando tutti qua lo proviamo, con l'apparecchiatura che c'è, così vediamo cosa diavolo è il problema. Già che abbiamo finito subito, non è quello il problema. Però Antone, io non posso attaccare un BL, mi ci chiuda. Cioè, attaccare un BL all'amplificatore mi ci chiuda, ma siamo mancanti, non ho cosa. Andiamo, andiamo, cazzo! Lineare, così lo facciamo la prova, non costa nulla, tanto porta il levitatore, porta il coso e tutto quello che c'hai, così faccio le prove qua. Papà, non so che cosa è, no. Non lo so proprio, io so solo che mi ha rotto le balle. E beh, l'ho fatto anche a me la cosa, io, a me me l'ha fatto l'altra volta l'alimentatore, quello vero, il grande, che il Marco mi diceva, stai uscendo le alternate, stai uscendo le alternate, ho detto, boh, strano, ho detto, eppure io, quando mi sono ascoltato, ho sentito, oh, cos'era, l'alimentatore è quello grande mio, che era fatto in pratica i ponti di rigori, quindi arrivava a un certo assorbimento e faceva reggere l'alternato. Poi ho preso e ho agganciato direttamente allo switching, e quel problema l'ho risolto subito, capito? In quanto se c'hai 3-4 watt, l'altro avvenne 20, che cambia la cosa, l'assorbimento è molto maggiore. Domani lo scopriamo subito, là. Capa, no, ma il problema è un altro, Antone. Il problema è che, cioè, che non anda, non anda questa cosa. Cioè, io adesso, se faccio la prova, attacco il BL al coso e mi si spegne l'amplificatore. Ho capito. Domani controlliamo tutto, cosa vuoi dire adesso? Vabbè, adesso usa quello per il momento stasera, quel baracchino che ho preso. Poi domani, quando passi qui, facciamo le prove, mettiamo tutto sopra la tavola, faccio spazio adesso, stanotte, e così troviamo quale il coso. Se no, se dovesse essere l'apparecchio, non devo già stanno qui, capito? E tu adesso devi essere la piglia del culo, a meno che non ti prendi l'altro, quello... farebbe la stessa identica cosa, anche penso che non cambierebbe nulla. No, insomma, potrebbe essere anche l'apparecchio, Antone. Cioè, come io vado a attaccare il PL nell'amplificatore si chiuda, ma come è possibile? Certo. Ma attacco il coso all'antenna, come ce l'ho adesso? Attacco, come vado a mettere il PL? Tanto chiuda, si spegne il display e rimane solo lo smitter acceso, com'è possibile? Ho capito. Capitato a me la cosa. Ma intanto vabbè, contesta me la colgo subito domani. Se c'è il problema dell'apparecchio, non so cosa interpretare. Il problema c'è perché vedi che io sto modulando con questo, sta pompando, sta andando alla grande. Ti sento bene, non è che ti senta male, sei perfetto, sei anche pompando. Antonello? L'hai seguito quel discorso sull'888, Antonello, di poco fa? No, stavo mangiando, non ho seguito per niente. Gli 888 adesso li stanno modificando a Sassari, li stanno vendendo di CD1. C'è una signora che li vende, ce ne sono, mi sembra, 5. Addirittura tirare anche il microfono tirato. Si sta vendendo 50 euro. Sì, vabbè, no, era per dirti. Ti ricordi che tanti anni fa io mi ero lamentato che un esemplare che avevo provato aveva lo specchio duro a aprirsi ed era meno sensibile in ricezione? Come ho detto poco fa a Gianfranco, ne hanno fatto 3 versioni. Quella più vecchia era quella che aveva quel problema. Poi hanno fatto una versione intermedia verso il 2015-2016 e poi hanno fatto un'ultimissima versione e queste due ultime versioni non hanno più quel problema dello squelch e della sensibilità. Infatti questi di adesso, quello che ha preso Antonio, sicuramente quello che avevo io, no? Va molto meglio del primo modello di tanti anni fa, capito Antonio? Tutto lì? Già me lo ricordo. Vabbè, io l'ultimo modello dell'888 mi sembra quello che mi avevi modificato tutto, se ti ricordi bene. Uno usciva sparato, usciva di... era molto più forte di dare dall'altro. Ne avevo preso due, ti ricordi? E quelli uscivano bene. E poi avevo venduto a Marino quei due. Li avevo comprati lì via Napoli. Ti ricordi bene. Quelli erano una bomba, erano sensibilissimi. Tu mi avevi detto addirittura, sta attento con l'888 perché quando attacchi l'antenna esterna, in pratica se vanno in... si chiudono in ricezione, invece era perfetto, sensibile. Gli altri ricordi parlavamo da... che parlavo da con l'antenna esterna, tu andavi lì a ballare, modulare, ti sentivo benissimo, tu sentivi a me. Addirittura anche con l'antenna in gomma. Scusate, sono le 9:05, io devo scappare, il televisore chiama. Ciao a tutti, buona serata, buonanotte, alle prossime. E io faccio lo stesso adesso perché non sto riuscendo a seguire un film dall'inizio, poi mi scombuscio da tutta la serata. Quindi ciao, buona visione Gianfranco, vai bombolo per i saluti. Ciao Gianfranco, buona visione e buon tutto. Antonello? Io ho detto ciao Gianfranco, ci sentiamo. Evidentemente tu sei qualcuno fatto. Ciao Gianfranco, ci sentiamo domani. Anda bene bene. Eravamo bene io gli 88, la verità. Di belli apparecchi, se no l'ultima serie è andata veramente bene. Poi il primo tu mi avevi detto che hai visto il corso su Facebook. Antonio, ti volevo dire dall'altra volta, ti ricordi i famosi cavetti di programmazione per tutti questi baobao, no? C'era il vecchio modello, quello tutto nero, no? Che ha anche la spina nera, che ha i driver prolific o simili, no? O fasulli, comunque prolific, dai. Per Windows 10 i driver invece sono di una ditta cinese, se mi ricordo il nome te lo dico, meglio segnarsele perché poi li puoi scaricare se non ce li hai, capito? È utile saperlo. Signori, chiudo, vado a farmi il caffè e mi attacco alla TV, quindi saluto tutti, ciao Antonio, non te la prendere, già si risolve tutto, ciao Antonello e tutti gli ascoltoni. Vai Antonello. Ehi, ciao Marco, ci sentiamo. Alle prossime buco di TV. E vabbè, adesso per un momento non posso scaricarmi nulla su quel computer piccolo che ho io, sai, non c'ho, è una specie di notebook, devo come tutto aggiornato quel computer, va aggiornato, beh. Dopodiché vanno scaricati i programmi direttamente da internet, perché non c'è possibilità direttamente dischetto di scaricare nulla, perché non c'è niente, capito? Ho più un computer tanto per essere computer. È piccolino. Ciao Marco. Ti spiego, magari se di un computer come si deve, che ci posso mettere il dischetto, faccio altro per farmi arrivare il dischetto alla Cina, mi scarico il programma, eccetera, eccetera, mi faccio la... Hola. Io portate le cazzo. Uno, due, essere prova. Dopo le balle a te, dopo le balle magari a Stefano, eccetera, eccetera, per programmarle. Invece me le programmo direttamente io, se la biennavo. Avanti a tu. Sì, scappa, ciao. Ciao Marco, dai, ci sentiamo. Sono io per fare un'altra prova, Antonè. Aspetta, 2 secondi, aspetta. Ehi, non fuggo io, sono qua. Antonè, come si comporta? Segnale forte, la radio è comunque d'oddio, capito? Non c'è niente da fare, l'unica cosa è domani provarlo con il più 4 e vediamo un pochettino. Capito? Mi porti quell'alimentatore che sta andando adesso. E vediamo se qualcosa, quello lo fa anche qua, perché se lo fa anche qua potrebbe darsi che sia anche il top assorbimento dell'apparecchio e il ponte di Iuri praticamente perdita, capito? Perché a me me l'ha fatto quello grande di alimentatore, quello da dove c'ho io. Quindi può darsi che sia anche quello. Lo proviamo con quell'alimentatore tuo e poi con lo switching, quello che c'ho io. Se non fa l'ordine alternata è perfetto, vuol dire che abbiamo trovato qualcosa, magari l'alimentatore che ti crea problemi, con la seta aperta. Capo, ma l'alternata c'è sempre, adesso ho dovuto dividere gli alimentatori per far funzionare l'amplificatore, com'è? Segnale c'è quello zio, ma c'è il segnale c'è. Perché dividere l'alimentatore? In che senso? Perché prima l'avevo attaccato all'altro, vero? Prima c'è l'amplificatore attaccato in tutti nei posti del, come si dice, dell'alimentatore, ma l'alternata c'è sempre. Sì, l'alternata c'è sempre. Ascolta, ma cosa hai evitato la ghiera del microfono nel baracchino? Non avvitarla quella ghiera, fai che non farla toccare alla cortina del microfono, va bene? Guarda, non è avvitata. Va bene? Non ti ho c'è sempre, può darsi che sia anche il microfono, niente di strano che sia il microfono. Comunque il segnale è perfetto, sei 9.30, c'è una bella si sente che è ben forte, hai capito? Adesso l'ho toccata con la ghiera, com'è? Sempre con quello zio. Mettici la mano sopra dove c'è come si chiama del microfono, la prego un attimino. Guarda a vedere. Spazzita il rondino alternata. Guarda, adesso ho aumentato un po' la potenza, com'è? Dice, forte. E sempre leggermente saturo. Stai pilotando con lineare? Devo tenere tutte le cose abbassate, così è perfetto. Via, così è perfetta, non c'è nulla adesso. Davvero, lo sto tenendo, lo sto variando me. Sto tenendo il coso. Il microfono, lascia perdere, domani mattina mi sale il BB, no, è diverso la connessione, la connessione via quello. Ah no, la posso fare controllare. Sali solo il microfono e basta domani. E così ti faccio la connessione, la facciamo controllare dove c'ho io. Tanto sono precisi con la 87. Vedi che adesso sto tenendo, non fa niente. Va bene adesso. E via. Come lo tocchi con la mano va benissimo. Scappa. E com'è modulazione? A pompa? E secondo te Antonio è solo il microfono. Quando ci mette il microfono, come si chiama la mano sopra la carrozzeria dello spinotto del microfono, vedo Dio sparisce. Potrebbe essere anche il microfono al mare, del 6. Non lo so, perché questo adesso sta pompando, prima c'era tutti e due alimentatori, uno attaccato all'altro, ecco perché si spegne qualcosa, in pratica è come se c'è qualche alimentatore in perdita. Ho capito, però non è questione di microfono, perché che se tu metti la mano che praticamente fai da induttore è un problema di massa lì, è un problema di massa, manca la massa da qualche parte, o sulla radio o sull'alimentazione, o perché gli ho detto se tu prendi un cavetto e metti un cavettino dal connettore del microfono alla massa, alla cassa della radio, prova a vedere se te lo fa, però l'alternata c'è sempre, diminuisce, ma c'è sempre, quindi è un problema di massa, capito Antonio? Poi il segnale che arrivi qua, Antonio, intanto non aumentare la potenza perché altrimenti ti mangia tutta la radio. Beh, una potenza media e buh. Ok, come la davi prima? Quanti devi dare? 4 watt? Dalle 4 watt, intanto non cambia niente. Ti porta via solo la radio. Qua col Kenwood mi stai arrivando lo stesso segnale che arrivavi con l'altro baracchino. Non come dice Antonello, 9.30, 9.40, 9.50. Fai da 9.10 a 9.20, uguale, preciso identico. Se aumenti l'ingresso al lineare ti porta via solo la radio e boh. No, ma io non emetto gli ingressi, ma secondo me il microfono può esserci qualcosa, c'ha. Perché è impossibile, cavolo, è impossibile qua. L'ho sempre usato, cioè, se io ti abbeggio ti piazzo l'altro non fai nulla, zero, non ho nessun tipo di problema. E cosa significa? Che qualcosa c'è. Manca di massa tra il microfono, quel microfono lì, e il baracchino, perché tu stai usando un altro microfono, un altro baracchino, e quindi può darsi che sia quello. Però, ti ho detto, portale il baracchino, il microfono è lineare, ok, Antonello. E lo provate lì, io avrei portato tutto e avrei provato tutto lì, in modo che ci sia qualcosa da tarare, si fa. Se poi è il microfono che manca di massa, vuol dire ti fa una massa a parte, Antonello, ma portale tutto. La radio è fortissima, tu, è un bel più forte delle altre radio che hai tu, quindi il microfono per me non ha niente, è un problema di connessione, e buh. Cabba, c'è qualcosa che non va proprio. C'è qualcosa che non va. Aumenta la temperatura, però si cazzo si rimagna la radio, non anda bene, no. Guarda a vedere. Non devi aumentare, ti ho detto, tanto poi fai quello che ti piace. Non devi aumentare. L'ingresso a quel lineare è 4 watt, e 4 watt le devi dare, punto. Perché se tu aumenti il segnale non aumenta. Non aumenta niente. Ti toglie solo via la radio, ti sporca la radio e buh. Quindi devi usarlo così, com'è, punto. Se poi devi usare tutta la potenza di quella radio, la devi avere un lineare come quello che c'ho io, che c'ha 15 watt d'ingresso, capito? Ecco, questa è tutta la potenza della radio, com'è? È 9.15, anziché 9.10 arrivi 9.15 con la potenza della radio. E così è tutto tolto e c'è Gigetto attaccato. E così c'è 9.20, quindi vedi bene che i discorsi sono belli che chiari, capito? Vai da 9.10 a 9.20 con il lineare attaccato, con la radio liscia, sei 9.15 con tutta la potenza aperta, con tutta la potenza chiusa a 4 watt, sei 9.10 come gli altri radio, non cambia niente. Cabba, c'è qualcosa comunque che non torna, raga. C'è qualcosa che non torna, anche sta cosa. Non lo so, tu, io non so cosa dirti, posso solo dirti che quello non è un rientro RF, ma è un'alternata causata da un piano di massa, qualcosa del genere. Capito? Babbo, dai, vado a vedermi la TV, ci sentiamo più tardi se ci siete, se no domani. Ciao! Ciao, ci sentiamo domani. Cappa, e poi c'è una bella ricezione questa radio, è la verità. Te l'ho detto che è una bellissima radio, risolviti questo problema e poi quella radio va benissimo. Cappa, chissà che Ghimara succede. Domani ci metto l'MB più 5, voglio vedere. Attaccami dei massimi. Cappa, secondo me avrà che cosa sta accadendo per questo sospetto. Vabbè, domani, ma no, facciamo le 25 e variamo come c'è chiaro, non ti preoccupare. Quindi, bisogna cambiare il microfono per forza. potete sapere, evidentemente c'è problemi, lasciate perché l'aria c'è, quando ci metti la mano sopra sparisce l'alternata, quindi ricolleghiamo le BBP5 e se la piglia poi se la piglia e sei tranquillo. La commissione la posso fare, ma intanto è uguale identica al coso, al 2009, preciso. K, secondo me ti sei dimenticato qualche cosa in questo microfono, ma... È un microfono vecchio, non è che sia... Dimenticarmi non mi ho dimenticato niente. È un microfono vecchio, devi capire che è quello, non è che non lo usavo più. C'era la nicchia. Stavo usando di sotto di Saletta, capito? Già l'hai visto che c'è Saletta sotto. E... non male li agganciamo quell'altro. Ne avevi più 5 e 6 tranquillo, là. I quattro non metti tutti i due limitatori uno attaccato all'altro perché cazzo se no ti succede come se ci fosse qualche perdita. Oh, K, con l'abbinamento così per andare bene. Così cavolo, cioè non so quanto dà ma bassa potenza, un watt. È una cosa del genere dovrebbe essere, perché io ho detto piazzati un watt, metterò. Uscita le barattine, ti metti il wattmetro e poi agganci dopo il wattmetro ci attacchi lineare e così sei subito la potenza, per così ti regoli, capito? E lo puoi mettere a zero oppure se da lineare lo usi a manettone, però devi ricordarti sempre quando prima di attaccare lineare di controllarti il potenziometro, perché se dai 20 watt a quel lineare non ti dura molto, rischi di bruciarti come si chiama i MOSFET che ci sono dentro. Non è un MOSFET questo deve stare a zero così, questo c'ha i cosi, c'ha questo è detto a G. Cos'è il B150, cos'è? Il B150 è B150, sì. K, il B150. Ma adesso qualcosa già sta uscendo, dai. Adesso, domani mettiamo quello là, secondo me ribasso tutto le macchine. E beh, domani lo proviamo con quel microfono, le MP5 così. Sei più tranquillo. Più 4. Più 4, quello che hai detto più 5 poco fa. Mi sono sbagliato. Un tono in più c'è, basta. Un potenziometro in più c'è. Avevo comprato del MP5, non avevo fatto pagare 70 euro credo. Poi gli ho detto, ma io ho detto del MP5 in queste condizioni, ho detto, non lo posso prendere. E Massimo mi ha detto, cioè cosa dice tanto a casa tua e lo usi solo tu. Ti sembra a te, ho detto. E tu, se viene uno da casa, ho detto, dice che bello questo microfono, me lo dai. Ma in queste condizioni non lo posso dare. In meno e tu mi sono preso quello, poi è venuto coso Marino e mi ha detto, dice, mi serve un Q4, me lo dai, e tu mi l'ho pagato così, io prenditelo, e gli ho dato a lui, perché come potenza non andava bene sia nel coso, nella 87 che nel 2009, non compava nulla, non si adattava bene per quella parte, l'unico che andava bene era col Kimball, con 140 che c'era lui. Gli ho fatto le commutazioni dei cavetti, sono passato da quella 8, gli ho agganciato quella 4, sono stati 2 giorni per fargli l'abbinamento dei cavi, perché usciva male, ma male, veramente male prima. Poi invece sono riuscito a azzeccargli la combinazione giusta, era una bomba, sembrava di avere l'MC60. Ascoltami un attimino Antone, in banda laterale adesso come va? A pochi watt? Laterale, se ricordati sempre il doppio, se ne è 5 passi a 10, se è 10 passi a 20, se è 20 passi a 30, capito? Guarda, lo voglio provare. Basta provarlo. USB. E via, USB. Hola, adesso sto scendo io, come fanno? Stavo facendo un accidente, ma l'altra, guarda un po', 1, 2, 3, sollevate il microfono. Ciao, dai, buon passaggio che ti centro. Ti vedo toccare la manopolina piccolina, non quella grande, la piccolina devi toccare per centrarmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenete presente che da un baracchino all'altro c'è qualche differenza, Non è un Kenwood, che è il Kenwood 27125.0 e il 27. Invece questi baracchini con le bande laterali si spostano di poco, non di molto, ma di poco. Kappa, guarda a vedere io come sono, forte sono di segnale. 9.10 sei di segnale. Sono 9.10 perché c'ho la potenza bassa. Kappa, 9.10 sì, con la potenza bassa. Radio 5, con la pena pena di lo zio, ma è sopportabile. Kappa, ma non posso... così al massimo, com'è? 9.20 in banda laterale, vabbè, devi presente che sto usando questo 3000 con il 4000, non è che mi fido molto dello smitter, perché c'è uno smitter che è da regolare. Kappa, con l'amplificatore va? Ho capito. Con l'amplificatore va? Beh, se metti l'amplificatore con le bande laterali, mettilo qua in SSB. Cioè, c'è il pulsantino in quel 150, metti il coso al minimo e attacca lineare. Ma guarda a vedere com'è. Adesso sei 9 più 25 passato. Kappa, poppa. Perfetto, perfetto, perfetto. L'unica cosa è, vabbè, siamo in città. Appena c'è un po' di propagazione di questi giorni, ti diventi un pochettino, andare su 45, diventi banda laterale o su 47, 48, capito? C'è la propagazione spagnola di solito, speriamo che arrivi, perché di solito l'inverno c'era, ma non è più nulla. Va in FM, Anto, va in FM. Nell'SSB funziona. Certo che funziona l'SSB, vai in FM adesso, metti l'FM come banda adesso. Kappa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com'è? Kappa, non è c'è strappato, vero? No, non è c'è strappato, è perfetta, non sta pure. Kappa, è alternata, si sente? Sì, quella si sente. Non è già l'inizio, ma subito con l'alternata. Kappa, così a fondo scala e... in cosa, in FM? Sì, a me mi segna così. Sì, perché è lo zero in questo smitter qua. Lo arrivo a provare un barattino, vero? Così me lo arrivo un pochettino. Per l'entra cavolo di domani sera. Faccio la temperatura giusta. Kappa, tu ci strappato, esci, Tu ci strappato. Adesso, ancora strappato, sono abbassato il microfono. No, solleva. 1, 2, 3, 4, guarda un po'. Vai ancora. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un altro pochettino. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Quello basta così. Qua devo... Allora, se esco strappato, devo regolare il... come si chiama? Dell'FM, devo regolare in trasmissione naturalmente. Kappa, dai, vediamo un po' se riusciamo a far uscire il cazzo apparecchio. Mamma mia, e già lo facciamo uscire, non ti preoccupare, già lo facciamo uscire. Che si è fatto una bella passeggiata, ma a parte il freddo che c'era, la cosa va bene, col segnale ti scalda un po', ma come ti fermi i 5 minuti di in via Milano, mamma mia. Lo so, vabbè, domani devo andare a recuperare l'MB+4, lo porto e vediamo un po'. Via, recuperalo così te lo piazzo e sei tranquillo. scappa. Qua scalda anche poco l'amplificatore con pochi watt. Scalda anche poco. Comunque lo puoi anche modificare quello bicchiere 50, mi devi mettere la resistenza, devi mettere più grossa di quella che c'è, che è pilota il finale. E la resistenza li conosci subito, è marrone, nero, nero. Capito? È proprio attaccata al finale. Li monta l'MRF 455. E cosa fa Antonio? Cosa fa? Salgono più watt e salgono. Le puoi pilotare con più watt le lineare. Ah, ecco, ecco, capito. Ah, guarda, basta che anche con un watt esce benissimo. Lo so, io ne avevo collegato una volta due di bicchiere 50, avevo tutti e due modificati, con la resistenza più grossa. Avevo messo la 7 watt addirittura dentro. E con una T all'ingresso, una T uscita, prima accendevo uno, poi accendevo l'altro di bicchiere 50. Tirava quasi 250 watt in tutto. Come prima accendevi uno e poi accendevi l'altro? Collegati in parallelo. Che cazzo! Non ci vuole molto a farlo, tutto collegato di quei lineari, piccolino, uguale. Poi andiamo da Fusano, prendiamo una T e ti posso dire che diventa una specie di B300. Ma B300 è proprio buon pado però. Prima esci con uno di linea e poi attacchi anche l'altro, quindi in pratica raddoppi lui la potenza. L'ingresso se per quello, l'uscita è prima uno e poi l'altro, cioè con tutti e due è una bomba diventa. Io ho fatto il collegamento così, era un demonio. Scappa. Comunque già va bene, dai. Ma noi che si scaldano. Con tutte e due le lineari agganciate assieme non stanno né uno all'altro. Scappa. Adesso vediamo domani di mettere a posto quello là che mi interessa di più. Attaccare tutte le masse, perché sennò è un casino, Sì, già lo so. Io lo so. Ma tu gli hai fatto la modifica, Antonella, a questo apparecchio? Modifica il trim, ho girato e basta, la LC, la MC e la potenza, basta, non ho toccato nient'altro, tutto il resto è normale come il latte baracchino, non c'è bisogno di toccare nient'altro. Sono quelli di trim, l'ho fatto in tutti gli apparecchi io, quella modifica lì. Esce molto, questo è la stessa identica cosa, questo con il scontro 2000, esce forte, in AM. Caramba. E ma dico, la potenza gliel'hai aumentata tu, gliel'hai aumentata? Cioè, quelle cose dovrebbe abbassare e alzare. No, dentro c'è un trim, all'interno le baracchine, no? Quando nasce con 5 watt, per dire. Perché il trim te lo trovi a metà. Io l'ho messa a manetta, quindi da 5 sono passato a 20. Poi già sai, c'era una lampada esterna per diminuire il watt. Quindi da 20 scendi tranquillamente, adesso non so se a 1, se a 2, quanto sia, ma quello col watt metto solo poi lo puoi vedere. Guarda, io c'avevo l'altro 87 che l'ha fatto così. Escono bene, mi dovevano 87 pompano, c'è la prima versione che c'è i pulsantini, quelli frontali che sono larghi se ti ricordi. Poi l'ultima versione che l'ho fatto è quella con i tastini piccolini uguali a quelli che c'ho io, del 2009 che c'ho io. Io già avevo questa versione, mi sembra. E pompava, sto dicendo, spingeva forte. Si spingono forte su quegli apparecchi, sono dei limoni, sono veramente belli. Quando ho aumentato le LC e cose del genere, tutti mi hanno detto, quanto è in confronto al 2009, se lo mangia il 2009, mi ha detto, come radio, era molto molto più forte del 2009, anche perché il 2009 l'avevo la stessa modifica, mi aveva cambiato le LC eccetera eccetera, ho cambiato più di quel tanto, lo spinge il 2009, quello nero. Ma così cavolo, a pochissime watt, che funziona con una meraviglia, funziona. funziona, è una meraviglia e è pompa. Guarda del segnale di ossa della potenza, cioè del, dello smitter, sale a 9, sai che ce l'hai manetta, quando scendi a 5 è molto molto di meno, quindi te la accorgi subito, vabbè, poi ti regoli con un watt, metto in seguito, te lo colleghi così lo sai a memoria, ti regoli dallo smitter, così una volta che sai più o meno dove va la freccia, sai il watt che sta uscendo. Speriamo di risolvere questo problema, mamma mia. Sì, ti preoccupare, già si risolve quel problema. Ma c'hai tu, queste le connessioni alla 48, questo è diverso. Ah, è diverso, la connessione delle, alla 48 c'è la ricezione, se non è nota che il microfono è ricezione esterna, non ha, invece questi modelli di qui hanno tutti la ricezione esterna, ci hanno capito. Quindi bisogna fare la cosa, il collegamento della croce, capito? Quello di sopra con quello di sotto, in diagonale. Gamba, gamba. E poi vediamo di fare qualche massa molto più accurata, perché è un casino. La massa ce l'ha parecchio, grazie a Dio, cioè già è agganciata, l'ho stampata lo chassis. La voglia massa anch'io. Che capo! Speriamo di risolvere la tornata. Sì, già la risolvi. Tu immagini che sto facendo di testa con quel Polmac. Non c'è verso, gli ho cambiato la capsula, gli ho messo la capsula di cosa, non c'è la verso di farlo funzionare. Allora mi sono rotto le palle e ho detto va. Dato che ho il microfono che mi ha dato Antonio, diciamo nel Saturn Echo che ho sistemato, mi piazzo questo e vediamo come va. Ti dico che va bene, perché c'è quel microfono, c'è due trimmer dentro per la regolazione dell'amplificazione. L'ho regolato in modo che l'apparecchio non fischi, perché se l'aumento fa tipo pall'ascolta, fa capito. Il collegato al microfono è perfetto, la radio è 5, non è ovattata né niente, sembra un catamarano, ragazzi, come usciva prima, non si capiva una fanculo. Apro la capsula, c'è un altro parlante, ragazzi, ha passato la capsula. Poi senza essere alimentato, capito? Proprio un apparecchio fatto a tipo cagata, ha pagato 98 euro, ho pagato questo, perché è il primo anno del lockdown. Mi hanno fatto pagare un bel, invece costava 50-60 euro, adesso non mi ricordo bene, c'è uno scontrino ancora, quando vieni te lo faccio vedere. Fate tutti quanti, cazzo, nuovo l'hai pagato un bel, se volete me lo spesso, sai quanto mi hanno speso di 23 euro me l'ho preso di, per spedirmelo. Adesso è uscito il Midram M10, è uscito, da Fusaro ce l'ha, l'hai visto, dice che è buono. No, non è più quella roba lì, no, guarda. Preferisco andare su internet, ci sono di quegli apparati che fanno a 25-30, che hanno la bandiera laterale, ce l'ho tutto, e se l'altro lo tengo, anche se vogliamo un altro, va bene lo stesso. Così è. E ti stavo dicendo, Antonè, adesso vediamo, va, va male, com'è. Se questo qua io lo modifico, poi questo ZG, se facciamo la modifica, questo non posso usare quello che ne ha 12 dopo. Quello che ne ha 12? Ma è lo spinotto? No, non lo spinotto, ha 12 volte, cioè 12 watt, io c'ho l'apparecchio a 12 watt, se fai con la modifica va, così è. Via. Mi pare che per la volta li faccio, a me non entra più ingresso, non ha problemi. Adesso le 24 settimane ti l'aggancio a quello che stai usando adesso. Poi l'altro baracchino ci metterei qualcun altro di microfono diverso. Ma lo sai che io non me lo ricordo Antonè, che io ti ho dato quell'MB più, cioè quel di M1000, quando te l'ho dato? Ah? quando mi ha dato il Saturn Echo c'era anche lì BMD, ti ricordi che era tutto messo male, era che ci va tutto a scarica eccetera eccetera. Allora l'ho preso, l'ho aperto, gli ho fatto tutte le saldature nuove, il cavetto gliel'ho accorciato e l'ho sistemato piano. L'ho preso, l'ho chiuso e esce un buon voice quel microfono. Adesso mi ha legato tutto quando sono venuto a prendere il Saturn Echo, mi ha legato il Saturn Echo con quello e invece io al Saturn Echo gli ho lanciato il apposto del DM1000 perché io ci vado tutto a scarica e gli ho lanciato il Salerno, capito? E usciva una bomba, usciva, però nel Saturn Echo, vabbè, l'unica cosa è io ho cambiato tutti i trimmer LC, AMC, Power, perché ti ricordi mi aveva detto di potenza Antonio a volte esce a volte no, allora ho comprato tutti i trimmer nuovi, li ho cambiati, è diventato un demonio con l'apparecchio, c'è veramente bene. Ho capito, ma capo lo sai, non me lo ricordavo manco più io, cioè se mi aprivo la testa non me ne ricordavo. L'anno scorso mi sembra che era 2 anni fa che me l'hai dato, quello è stato un ecco. 2 anni fa sarà. Io lo so che gli anni passano. Io. Speriamo bene che ha fatto qualcosa che riusciamo a risolvere, mamma mia, guarda. Sì, la madre vera è che con microfono alla tavola appena lo ritiri. Che aspettiamo quel problema non ce l'hai più, almeno sei tranquillo. Cioè, ma si assomiglia a cosa questo? Agli M1000, è vero questo dici? Si assomigliava, sì, in quel pulsatino che c'ha dietro, vedi quel pulsatino che c'ha dietro, se tu lo schiacci fa 5 tiro dell'uccello. Così è? Lo sto dicendo. Come stai quel pulsantino quando sei in trasmissione se sente 5 tiro dell'uccello in, vai pipipipipi. Cosa cazzo è? È nato così quel microfono. Si sente, a me mi pare mezzo gassigato questo microfono, Che macchina stai usando tu? La 87. Ma è tutto alternata, cioè. Già lo so, già. So. Aspetta. Ora se va un po' meglio, no, c'è qualcosa questo microfono. Scappa, dai, che riattacco quello là, il ragazzo di Giamma. Ogni agasino. Cazzo vero, eh? Che agasino, cazzo di Benivella, boh. Antonio, mi stai facendo TV guai. TV guai stai facendo tu. Dai, sono alla TV, sono entrato. Era acceso, basso, in tinia il suo casino. Anche l'FM è rumoroso, minchia. Ok, ciao Lu, ciao a tutti, Antonello, poi Antonio, tutti. Ciao, Maru, capito? Me. Oh Giulia, la vecchiaia mi sta già. Ciao Marco. Perché siete in FM? Stavo provando il baracchino in FM, in banda laterale in M. Come senti male in FM? Hai detto se mi senti male in FM? No. Meglio così. Ti sento bene. Sono contento che mi senti bene. Adesso attacco l'eco, se non ricordo male è questo. No, mi sentite? Sbagliato, mi sono spostato di. Deve essere questo, l'eco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lecca. Prova a vedere così come sono, va bene adesso? Adesso sì. Papà, com'è? Buona, la radio 5. Papà. Da voi come, Luca, come, va bene? Sì, sì. Eccolo là, cazzo, va, che marasussi, va. Metti il microfono, vai, vedrai che è perfetto. Papà, come tu lo sai? Non ho capito. Secondo me tu lo sai. Secondo me io lo so. Ma che cosa hai sul microfono? Io sono me che non lo stavo usando quel microfono. Perlomeno io nel 2009 quando lo usavo, lavorata Giovanna, ci va bene. Lo usavo anche io, ci va bene lo stesso. Poi vabbè, preso, ho attaccato questa delta. La verità. Modulavo con quello. Poi intanto cambiavo da chilo, da quello passavo all'altro. Vabbè, comunque... Allora vediamo che microfono dice, cioè, vediamo un pochettino, magari si è staccato qualche filo, metto... Via, aspetta, aspetta! Sì, basta di fargli l'isolato di nuovo, gli rifaccio se la pia in Napoli. Scappa. Prova a vedere... Beh, sotto piccolati con l'MP5, poi... Sì, almeno sei più tranquillo. 4. Aspetta, scendo giù in bagno, va. Riprendi, oh, chi c'è? Ritorniamo da M. Sì, aiuta di M, là. Aspetta che vado giù, va. Ehi, eccomi. Comunque che questo è di M1000, mio Antone. Di M1000 è quello, eh. Allora, è vecchio, eh. Ah, una paga. Già esce bene comunque, se deve venire. Hola! Attento, buon pugno, senti, senti, cambio, cambio! Scusate, dai. Bello, ed è vecchio, questo è uno dei primi che abbiamo avuto. Si sente bene a voi, ci mancherebbe. Sono microfoni vecchietti, ma già escono. Una volta si usavano di 1,100 cioè. Prima costavano 10, 20 euro, poi da 20 euro sono passati a 40, l'ultima volta a cazzo quasi 90 euro voleva, gli ho detto ma fanno una cosa, attaccate il in culo, vai, gli ho detto, a uno. Questi sono pazzi, ho detto, 90 euro, un microfono alle 1,300. Non ricordo la 1,300. Sì, se lo facevano pagare, mi stanno facendo, meglio quello. L'ultima volta, poi sono sparito la circolatore, non l'hanno più costruito. Oggi è buono l'M300, cioè non me lo ricordo la verità. Cazzo, se mi spacca la testa non me lo ricordo. Dopo lo guardo. Se assomiglia a sua delta cos'è? Se assomiglia un po' a Densei. Frontalmente c'era lo slider, capito, se ti ricordi bene. Non è di coso, Antone, di... come si dice? La foglia ce l'aveva, ma non era l'ecco dei miei mille, era l'ecco tipo reverbero lì. Per farlo più lento dovevi cambiare i due trim che ci sono all'interno. Allora ti faceva l'effetto leggermente più lento, poi sentivi un fischio se aumentavi troppo, capito? Un rientro di... l'integrato all'ecco era. Papà. No, non me lo ricordo, la verità. Cazzo, come dovevo sistemarlo? Perché a me piacciono i microfoni. Così, non microfono a tavola, lo uso così di giorno, ma a me piacciono i microfoni così perché lo prendo, mi goffo e va bene. Microfono ormai la verità uno mi ha regalato quello del 2009, solo che avevi dato il microfono normale e potevo provare. Hai capito? Per un po' uno mi ha detto me lo dai, intanto il 131 ce l'hai qua buttato, gli ho fatto figliardino e gli ho dato. Adesso io ho solo questo microfono qua, in salerta. Quindi che mi hai dato tu, e poi come si chiama? a poco girare del pomma che non sapeva l'accidente. E poi, vabbè, quando hai cacciato la...